Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, linee aperte oggi perché parliamo della Juventus, del Napoli, soprattutto facciamo il processo al Milan dopo quello che è successo ieri sera a San Siro. Vi raccontiamo anche in diretta il Gran Premio del Brasile di Interlagos, terzo giro, Vettel, Rosberg, Alonso, Webber, Hamilton, ma è un Gran Premio che promette bene perché nei primi due giri ci sono già stati una serie di importanti di sorpassi. È stata questa una domenica di verdetti per la Serie A, secondo me primi verdetti: Juventus 34 punti, Roma 32, Napoli 28, Inter 25, Fiorentina 24, mancano le partite di Roma e Inter e questo significa che tutto è tornato alla normalità e cioè la Juventus che comanda. Se vorrà resistere in testa, la Roma domani sera dovrà vincere. Poi ci sono ovviamente anche gli strascichi di ieri sera, ci sono le brutte notizie per il Napoli, c'è questo processo al Milan aperto anche qui fino alle 19, 800 24 00 24. Voglio sapere che cosa ne pensate di Allegri, di Gagliani, come il Milan può, se può, uscire da questa crisi. Carlo, ci sei? Presente. Prima pagina, prima pagina. Era quello bello e inutile, pronto a essere rispedito a casa come un pacco. Ora Llorente è l'arma in più di Conte. 5 gol in stagione, tutti belli e pesantissimi, come quello di Livorno. Pensate, la Juventus è di nuovo prima, aspettando la Roma, e ha 34 punti, come mai dopo 13 giornate nell'era Conte. Pogba, corre Padoin, ha visto adesso Pogba, va il cross dentro, Llorente! Il leone di Pamplona sblocca la partita, Fernando Llorente, 1-0. La Juve vince e lancia un messaggio chiarissimo a chi ha rallentato, come la Fiorentina battuta Udine o come il Napoli che ha perso Hamsik, nemmeno convocato per Dortmund, e che questa sera, pensate, potrebbe essere raggiunto dall'ex Mazzarri. Noi sappiamo di inizio che poteva essere difficile, soprattutto queste partite, quando si giocano tante partite seguite, dobbiamo preparare la prossima martedì e dopo pensiamo al 3-4 giorni per preparare la seguente. Dobbiamo arrivare a gennaio in una buona posizione e vediamo dopo la fine dove siamo. Gli occhi di tutti però sono su Milanello, sulla crisi del Milan, su Allegri che è appeso alla trasferta di Glasgow e su tutto che potrebbe cambiare o anche restare uguale. Verso i tifosi c'è grande rispetto perché ci hanno sempre aiutato e ci aiutano molto. Io credo da questa situazione se ne possa uscire tutti insieme, noi, la società e i tifosi, perché in questo momento qui più uniamo le forze più è facile uscire da questa situazione. Si racconta che Balotelli sia arrivato in ritardo all'allenamento questa mattina dopo una notte passata davanti alla televisione su Twitter. Si dice che Gagliani potrebbe mollare tutto a Natale e che il domani potrebbe già essere adesso. Sono parole in libertà come quelle pronunciate a mezzanotte da Kakà e Abbiati per calmare gli ultra inferociti. Sarebbe bello che i tifosi non avessero questo potere, sarebbe bello, ma il Milan di oggi è anche questo. Si è concluso in questo momento il colloquio tra Kakà e i tifosi del Milan. Kakà e Abbiati hanno incontrato i tifosi rossoneri per ascoltare la loro protesta. Tutti convocati. 800 24 00 24, voglio sapere cosa ne pensate della crisi del Milan, voglio saperlo da te Carlo, se è una crisi irreversibile, se c'è modo di tornare indietro, non lo so, io faccio fatica a mettere in fila i pensieri. No, non c'è modo di tornare indietro, sono sempre più convinto che l'uscita di Lady Barbara sia stata intempestiva e abbia aggravato la situazione già molto difficile. L'allenatore era già esautorato da tempo, Gagliani ancora no, Gagliani era l'uomo che poteva ancora tenere le fila di questa società, adesso non è più nemmeno così, quindi non vedo una via d'uscita. Certamente Allegri non può essere confermato su quella panchina perché i giocatori non ci credono più e sappiamo, abbiamo lunghe esperienze di queste situazioni, sì, in cui abbiamo debole. Un allenatore troppo debole, ma i giocatori lo sanno, se ne approfittano, sanno che non c'è futuro con quell'allenatore né in questa stagione né tantomeno nella prossima, e dunque è una situazione destinata soltanto a peggiorare. La fortuna del Milan è quella di avere un girone molto morbido in Champions League, ma questo Milan potrebbe anche cadere. Sì, c'è il precedente del Rosenborg, ci sono altre situazioni. Ti faccio sentire le prime battute di Montella, Sky Sport. Singolarmente, sbagliando evidentemente, ma questo è calcio, insomma, probabilmente pensavamo che il secondo tempo saremmo riusciti a giocare nella stessa maniera, ma così non è stato. Qualche forse errore di troppo anche a centrocampo, dove di solito non sbagliate mai. Ma non direi, no, come atteggiamento abbiamo avuto un po' di frenesia, che questo ci ha portato via le nostre geometrie, cose che nel primo tempo invece avevano funzionato benissimo. Sì, Fiorentina non bella oggi a Udine. Intanto Alonso secondo, ha superato Rosberg, che poi è stato superato anche da Webber, davanti c'è Vettel, lo ricordiamo, oggi vale solo per quel secondo posto nella classifica costruttori, con la Ferrari che deve recuperare 13 punti alla Mercedes. Torniamo al Milan, Carlo, io faccio fatica a mettere in fila i pensieri, nel senso che non riesco nemmeno più a capire se ad esempio mandare via Allegri adesso abbia ancora un senso, se ci sia anche qualcuno che questa decisione la può prendere. Beh, insomma, qualcuno la decisione la può prendere per forza di cose. Sì, ma la può prendere dando un progetto almeno per i prossimi 6 mesi, questo intendo. Per i prossimi 6 mesi serve un uomo della società che può essere Inzaghi, un uomo della società che può essere Filippo Galli, un uomo che comunque avrà un futuro in quella società, quindi un rappresentante quasi della società, perché è chiaro che con l'allenatore che non ha più potere nei confronti dei giocatori, nei confronti della società, che è stato più volte messo in discussione, più volte confermato controvoglia, allenatore che è un uomo di Galliani che si sa che andrà via. Io non vedo una via di uscita, si tratta soltanto a questo punto di limitare i danni. Cosa vuol dire? Mettere appunto una società che abbia un minimo di credito nei confronti dei giocatori. Può esserci la famosa scossa di cui si parla. Non c'è molto da salvare in questa stagione del Milan. La Champions League è un miraggio sempre più lontano e sicuramente non arriverà alla zona Champions League. L'unico obiettivo proponibile sono gli ottavi di finale della stessa Champions di questa stagione, però anche questo è un obiettivo che diventa sempre più difficile, perché il Milan visto in queste ultime partite non è detto che faccia risultato a Glasgow. Sì, può perdere contro chiunque. È talmente fragile che si può sciogliere davanti a chiunque. Poi c'è tutto il resto, poi c'è la contestazione dei tifosi che certamente non aiuta, poi ci sono quelle scene lì davanti a San Siro, io faccio fatica a giustificarle, anche se poi per ordine pubblico si può fare tutto, si può fare anche che i poliziotti stiano lì a guardare gli ultra che decidono, comandano chi entra e chi esce. E poi c'è Giorgio Petrosian, Carlo, lo conosci? No, chi è? Giorgio Petrosian. Cosa hai fatto questa notte alle 5? Dove eri questa notte alle 5? Io? Sì. Io ero a dormire. Tu a dormire. Balotelli invece era davanti alla televisione a vedere tale Giorgio Petrosian, che è un campione di arti marziali e che a New York combatteva, pare sia stato anche sconfitto. Pare che quel tweet dell'Alba, "This is the end, questa è la fine", fosse riservato non alla sua avventura al Milan, ma insomma al futuro agonistico di Giorgio Petrosian. Sono ingenui, assolutamente ingenui, capisce? Perché lottare bene, giocare bene e non finalizzare gli unici contropiedi che ti capitano sia a Milano che oggi con la Juventus, se noi andiamo in vantaggio, poi sono fatti loro, scusi se non dico altre cose. Perché per quello questo che è Spinelli, presidente del Livorno. Ecco, se giochi male e perdi va bene, ma non giochiamo male, giochiamo bene e perdiamo, e questo non va bene. Ecco, noi ci siamo conquistati la Serie A, dobbiamo tenerci questa Serie A. Assolutamente. A me sembra che la Juventus oggi abbia ottenuto una vittoria capitale, considerato anche l'emergenza da cui partiva, soprattutto in difesa, ha controllato, in parte sofferto, perché è successo anche questo nel primo tempo, poi però nella ripresa non ce n'è più stata per nessuno. C'è un amico che scrive su Twitter, chiocciola tutti convocati, mi raccomando, adesso parliamo del bidone Giorente e dei chilogrammi in sovrappeso di Tevez, se vuole ne parliamo, però evidentemente non è così. I due insieme 10 gol in 8 partite giocate, direi tanta roba. Torniamo a quello là, Carlo, a Balotelli? Sì, dai, 45. Cosa ne pensi? Che detto che Llorente era un bidone quando stava in panchina, quando Conte non lo faceva giocare. Perché... No, ma poi l'ha spiegato, lo spagnolo faceva fatica, non si era adattato, veniva da un anno praticamente di inattività. È un ottimo giocatore, è più forte di Matri, è uno che ha sempre segnato anche in Spagna, anche con la nazionale spagnola. Dunque certamente un bidone non poteva essere, però dalla panchina i gol non li poteva fare. Certamente, invece c'è chi può farli, ieri ad esempio ha avuto anche un calcio di rigore, è un ex infallibile, l'ha sbagliato. Io non lo so se sarà gennaio, se sarà giugno, so però che l'avventura, la storia d'amore tra Balotelli e il Milan è ai titoli di coda. Ma difficile dire, capire quale possa essere il futuro del Milan in generale, poi il discorso di Balotelli si inserirà in questa direzione. Perché in questo momento il Milan è solo un gran casino, quindi è impronosticabile anche il futuro di Balotelli, andrà via, resterà, non si può sapere, in questo momento è un giocatore totalmente sfiduciato, il linguaggio del corpo dice che è uno che non ci crede, non ha fiducia, per prima cosa in se stesso, perché Balotelli quando ha fiducia in se stesso va sul dischetto e la mette nell'angolino, ieri quel rigore è stata la sintesi del suo momento. Sì, mi ha telefonato. È una sintesi del momento, Carlo, anche il sorriso di Carlo di Antonio Conte. Sentiamolo, Sky Sport. Anche oggi mi è piaciuta perché quando poi affronti queste partite può capitare che magari vieni dalla partita con Real Madrid, vieni dalla partita col Napoli. E un minimo di superficialità, di presunzione può comunque entrare nella testa dei calciatori. Invece mi è piaciuto l'approccio, siamo stati bravi, anche se nel primo tempo potevamo girare un po' di più la palla in maniera veloce, però siamo stati bravi alla distanza, abbiamo fatto la nostra partita rischiando veramente nulla e ottenendo una vittoria che è sicuramente in questa fase del campionato è importante. Ha proprio un bel sorriso Antonio Conte, secondo me ha tutte le ragioni, Carlo, ha tutte le ragioni. Dopo Firenze, 5 vittorie su 5, 10 gol fatti, 0 subiti, la Juventus viaggia più forte di quella dell'anno scorso, di quella dell'anno prima. Ho l'impressione che da qui racconteremo un campionato diverso. Grazie Carlo. A te Giovanni. Grazie a Carlo Genta. Ciao. 800 24 00 24, abbiamo aperto il processo al Milan, vi aspetto, siamo in onda fino alle 19, abbiamo altri ospiti, cercheremo di raccontarvi tanti retroscena della serata di ieri. Antonio da Isernia, buon pomeriggio. Salve. Prego. Salve, buonasera. Ecco, mi sente? Sì, dica. Ecco, senta un po', signor Capuano, io non mi stancherò mai di dirlo e nessuno me lo toglie dalla testa. La rovina del Milan per il 95-99% è il responsabile tecnico. Da 2 anni a questa parte. Sta parlando di Allegri. Sì, è chiaro che sto parlando di Allegri. E di che cosa che è lo stesso però che 3 anni fa ha vinto lo scudetto. Signor Capuano, chiedo scusa. Sì, prego. La ringrazio molto. A questo punto, io se fossi in Allegri rassegnerei le dimissioni. Perché è evidente che la squadra ha bisogno di uno scossone. Allegri ha dimostrato di non essere all'altezza del blasone e della tradizione del Milan. Io vorrei dire tante cose. Sì, ma Antonio, Allegri ha distrutto il Milan. Sì, Antonio, ma certamente, ma come no, Allegri ha un milione di colpe. Io non sto facendo l'avvocato difensore di Allegri, però Zapata e Costant, per citare i due giocatori contestati in maniera più dura ieri sera dai tifosi del Milan, non li ha comprati Allegri, sono frutto di una politica societaria legittima, così come legittima è quella ad esempio dell'Inter nelle ultime 2 stagioni, e che i tecnici di turno, compreso Allegri, hanno forse anche subito. Poi se serve a dare una scossa mandiamo via Allegri, mandiamolo via subito, però io non ho capito qual è il progetto nei prossimi 6 mesi. Andiamo a Livorno intanto perché c'è Conte che sta ancora parlando, poi andiamo dal nostro Leonardo Ciancarella. Ciao Leonardo. Sì, buongiorno. Eccoti, ti dicevo, lo raccontavamo prima, Conte è particolarmente sorridente, i numeri dopo il KO di Firenze sono quelli che abbiamo detto, e quindi 5 vittorie in 5 partite, 10 gol fatti, 0 subiti, mi sembra una Juventus che si sia nemmeno troppo lentamente riappropriata del suo ruolo. Sì, assolutamente sì, anche se sarebbe riduttivo dare solo meriti alla Juventus o credere che abbia avuto vita facile qui a Livorno, perché soprattutto nel primo tempo la compagine labronica non si è assolutamente risparmiata, si è chiusa molto in difesa affidandosi alle ripartenze ed ha messo in difficoltà la squadra di Conte che era obbligato a fare un turnover anche non troppo velato in difesa per le quattro assenze contemporanee. Si è ben disimpignato Vidal e nel secondo tempo la differenza si è vista, di sicuro non è mancata la voglia di appropriarsi della partita e di fare i tre punti, si è vista però che una certa difficoltà fino intorno al 60° del primo tempo, quando poi i solisti, i singoli, e forse qui la differenza anche rispetto alle altre squadre europee impegnate in Europa, le altre italiane, si è vista, perché Llorente, i Tevez e un Pogba ancora una volta in grandissimo spolvero hanno dato quella marcia in più. Sì, non c'è dubbio. Che aria si respira lì all'Ardenza, in sala stampa? Ma siamo ancora in attesa, perché non abbiamo avuto ancora voci ufficiali se non quelle della televisione. Di sicuro non è che ci si aspettasse, almeno da parte di vista del Livorno, ci si aspettassero i tre punti. La squadra si è ben disimpegnata, magari è apparsa un po' spuntata, e invece da parte juventina chiaramente non poteva andare meglio, perché nessuna rete subita, nessun infortunio e il morale molto alto in vista della Champions. Non c'è dubbio. Allora resta lì Leonardo, se hai un ospite. Prima però andiamo da Simone da Verona, 800 24 00 24. Simone, buonasera. Buonasera. Da Verona, volevo intervenire. Prego. Sulla crisi del Milan. Secondo me la colpa non è di Allegri ma della società. La società negli ultimi anni ha fatto chiaramente degli investimenti sbagliati, a mio modesto avviso, ultimo non ultimo l'inserimento di Kakà, un giocatore che ormai la sua storia l'ha già fatta. Sì, anche se mi sembra, Simone, che nel deserto di qualità del Milan Kakà in questo momento sia uno dei pochi punti di riferimento, il Kakà visto dopo il rientro dall'infortunio. Sì, però certamente la squadra di due anni fa con Ibrahimovic e gli ex senatori era sicuramente uno strone. A mio avviso ultimamente non potrei dirgli nulla ad Allegri, un allenatore che non mi piace, ma perché probabilmente non riesce a bucare lo schermo, a essere incisivo come altri, ma a mio avviso qualsiasi altro allenatore, prendessimo anche Guardiola sulla panchina del Milan, non farebbe sicuramente meglio di Allegri. Qualcosina probabilmente meglio lo farebbe, perché abbiamo visto anche ieri sera il derby di Verona che Corini ha leggermente aggiustato la squadra e l'ultimo secondo ha portato a casa un derby sperato. Sì, però Simone, stiamo parlando di due mondi che non si toccano, con tutto il rispetto per Corini, che è un amico di tutti i convocati, per il Chievo. Milan ha delle aspettative e delle pressioni che sono imparagonabili con quelle della provincia, con quelle di Verona. Allegri è un allenatore che ha fatto il suo tempo al Milan e lo ha fatto già quando a giugno ha scelto di restare pur in scadenza di contratto, perché a quel livello un allenatore in scadenza di contratto fa fatica dentro uno spogliatoio di peso come quello del Milan. Poi dopo la stagione è arrivata male, è crollato tutto e poi nelle ultime settimane ci hanno spiegato che evidentemente c'erano delle crepe anche in società molto più profonde. Grazie comunque. 800 24 00 24 per dire quello che volete, la vostra sul Milan, soprattutto sul Napoli, sulla Juventus. A proposito di Juventus, torniamo a Livorno, Leonardo. Allora sì, siamo in compagnia di Alessandro Guerrieri del Tirreno, al quale vogliamo fare una domanda soprattutto sul primo gol della Juventus. Cross di Pogba e gol di Llorente, un gol a parametro zero, forse anche nel mercato è la chiave di questa Juventus? Ma sicuramente sono stati due colpi, come dicevi giustamente tu, a parametro zero, da incorniciare, che adesso se la Juventus decidesse di rivendere questi due atleti porterebbe in casa minimo 60 milioni di euro, e questa la dice lunga sulla bontà dell'operazione. È vero, comunque lì in occasione del primo gol c'è stato un Bale che è stato troppo timido, ha permesso a Pogba di crossare, e poi Llorente è stato veramente molto molto bravo. Llorente secondo me oggi migliore in campo, da oggetto misterioso a grande protagonista, un gol, un assist, è lui il giocatore migliore di questa partita. Un'altra battuta: Chiellini è di origini livornesi, anche praticamente livornese, anche oggi c'è stato un battibecco continuo con la curva e con il pubblico, non si riesce ogni anno, è così, non si riesce proprio a far pace tra il giocatore e la sua città. Ma c'è stato quel battibecco con Schiattarella, francamente lo potevamo evitare, però è stato molto bello al termine della partita. Chiellini ha salutato tutti i giocatori del Livorno, che poi è la squadra della sua città, peccato per i fischi anche generosi da parte curva. Comunque Chiellini si è dimostrato grande professionista, ma comunque salutando i giocatori amaranto ha rimarcato le sue origini livornesi. Sì, comunque il clima è stato se non altro una partita tesa, ma non cattiva. Mi auguro, Leonardo, un clima tranquillo, visto anche le premesse, la storia raccontata sui giornali in queste ore. Mi auguro che sia stato tutto all'altezza. Sì, assolutamente, guarda, ci sono stati dei bei momenti anche quando Luci è andato a salutare il capitano del Livorno, che insomma, come abbiamo già detto, ha reso nota una vicenda triste che riguarda suo figlio. Ci sono stati dei bei momenti quando è andato a salutare la curva, c'è stato un bel minuto di raccoglimento in favore della Sardegna, quindi è stata una partita maschia, come si dice a volte, ma senza brutti momenti, assolutamente. Grazie, Leonardo. Ci siamo raggiunte negli ultimi minuti, ecco. Più spesso, magari qualche volta lo vinceremo anche, però questa tensione che mi fa svegliare, invece in nazionale è uno stress, è un altro lavoro bello, perché comunque anche là abbiamo costruito Sinisa, dei bei giocatori e tutto. A proposito di Serbia, sarà Stankovic il tuo erede, perché era in tribuna oggi a vedere la partita. Questo è Mihajlovic, una Sky Sport. Sentiamo la risposta su Stankovic, che oggi era a Genova a seguire la partita fra Sampdoria e Lazio 1-1. Ci dai questa beffa per la Sampdoria al 94esimo. È venuto perché voleva starmi vicino in questa prima partita, come tra l'altro anche tutta la mia famiglia. Però sicuramente farà qualcosa in nazionale, ma non credo CT, perché non penso che ha carattere per fare questa cosa qua. Ho l'impressione, caro Giancarlo Padovan, buonasera intanto. Buonasera, ciao. Ho l'impressione che il sorriso di Mihajlovic sia di circostanza, contento per essere tornato in campo, l'ha detto, lo stava spiegando, gli mancava il lavoro sul campo tutti i giorni, però i due punti che ha lasciato lì la Sampdoria pesano tantissimo, tra l'altro un gol assurdo preso in contropiede al 94esimo sull'1-0 in 10 contro 11, ho l'impressione che domani li attaccherà tutti al muro, metaforicamente parlando. Non so se li attaccherà tutti al muro, ma certamente la sua aria non promette niente di buono, cioè difesa sarà spada tratta della squadra, contento della prestazione, ma uno è contento della prestazione se ci stai 92, 93, 94 minuti sul pezzo e non se ti distrai all'ultimo secondo vanificando tutto. Quindi credo che domani sarà una giornata dura per i dopodomani sarà una giornata dura per i giocatori sampdoriani. Certo, Mihajlovic ha molto carattere, ha molto molto coraggio, non ha paura di dire quello che pensa e quindi credo che sia anche tornato proprio per interpretare questo ruolo. Certo, 800 24 00 24, per chi vuole chiamare, linee aperte fino alle 19. Abbiamo detto, aprendo il programma, che questa è una prima domenica di verdetti. Il verdetto più importante è che la Juventus, aspettando la Roma, è tornata là dove compete e sta correndo più forte dell'anno scorso. L'altro verdetto, secondo me, Padovan, è la sconfitta della Fiorentina, che è bella, gioca bene, ha dei grandi campioni, ha Pepito Rossi, però quest'anno non ha continuità e comincia a essere un tratto distintivo. Pensavo infierissi su di me dicendo che l'altro verdetto era la sconfitta del Napoli, perché io notoriamente sono uno che sostiene da 2 anni, cioè già l'anno scorso e quest'anno l'ho ribadito, che Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Con me sfondi una porta aperta. Il problema è questo, che con Carlo Genta per Luigi Pardo abbiamo scommesso a fine agosto e io ho scommesso il Napoli e soffro. Siamo accomunati ancora in questa speranza che si è un po' affievolita ieri. Hai ragione comunque sulla Fiorentina, partite come quella di Udine vanno vinte, anche se il campo è un campo difficile. È vero che nelle ultime 2 gare interne l'Udinese aveva sempre perso, però è altrettanto vero che veniva da una striscia molto lunga di imbattibilità interna. Poi è una squadra difficile che ti fa giocare male, e ho visto per quello che ho potuto vedere, perché quando vuoi vedere troppe partite non capisci bene neanche una. Mi è parso che avesse un ritmo troppo basso la Fiorentina e l'Udinese si chiudesse e ripartisse con molta agilità. Ha fatto di più la partita la Fiorentina, ma l'ha fatta a ritmi troppo blandi e questi non sono i ritmi di una grande squadra. Sì, ho visto dei contropiede enormi sbagliati dall'Udinese, soprattutto nella seconda parte della ripresa. Addirittura uno in 4 contro 2, uno addirittura 1 contro 0 è riuscito a tirar fuori, cioè sono stati momenti in cui la Fiorentina ha veramente traballato, e questo vuol dire che è una squadra che non ha ancora maturità totale. Non c'è dubbio. Ti leggo alcuni messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, dove ovviamente si parla molto di Milan. C'è chi dice: basta difendere Allegri, nessuno lo ha obbligato a rinnovare con il Milan, ha preso i 2 milioni e ora si prende gli insulti. Poi adesso, in nome del politicamente corretto, difendiamo ancora Balotelli, i guai del Milan sono i suoi, mi pare di capire, questo è il messaggio di Max. Io non so se i guai del Milan siano i guai di Balotelli, ci sia una relazione diretta tra le due cose. So però, e l'ho confessato in apertura Giancarlo, che faccio fatica a capire che cosa può fare il Milan adesso, da qui a maggio, giugno, non parliamo di cosa succederà dopo. Tristemente può solo cambiare allenatore, credo. Può solo cambiare allenatore, e io ho una sensazione brutta per Max Allegri che lo cambierà dopo la partita con il Celtics, perché anche quella io vedo molto, come dire, pericolosa dal punto di vista dell'esito. Dopodiché da qui a gennaio, se non succede questo, o anche se succede questo, ha una stagione, ha una mezza stagione anonima, come poteva essere anonima quella dell'anno scorso, invece non l'è stata perché c'è stata la grande rimonta. Una mezza stagione anonima nella quale però inserirà dei giocatori di una certa qualità, tipo Rami e Onda, e dopodiché c'è da soffrire, perché seppure guardiamo la classifica, non dico che la classifica sia brutta da pensare alla Serie B, ma certamente non c'è da stare allegri. Poi i ricorsi statistici qualche volta danno pensare, insomma, e quindi è vero, come dice Dan Peterson, che esistono le menzogne, le grandi menzogne, e poi vengono le statistiche, però alle statistiche bisogna dare un certo conto, e il Milan sta andando peggio dell'anno, o sta andando alla stessa maniera di quando andò in Serie B. Sì, questione di un punto la differenza. Intanto un aggiornamento sulla Formula 1. 28 giri a Interlagos, primo pit stop effettuato, Vettel, Webber, Alonso, Massa e Hamilton, Ferrari che danno segnali di vita. Ho l'impressione, non ho la calcolatrice in studio, che però siamo lontani dai quei 13 punti che servono alle rosse per guadagnare il secondo posto nella classifica costruttori. Parlavi del Napoli, Giancarlo Padovan, andiamo allora dal collega del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, per farci raccontare, ciao Antonio, il giorno dopo del Napoli, a partire da Amsic. Intanto buonasera a te. Grande affetto Giancarlo. Ciao. Con piacere. Ciao Giancarlo. Prego Antonio. Ma il giorno dopo non è un gran giorno, onestamente, anche perché la Juventus ha provveduto ad acuire i disagi attraverso l'allungo, che tra l'altro era prevedibile, considerato che credo che i campioni d'Italia siano di gran lunga i più forti in questo momento, ma sai, i ragionamenti del Bar Sport inducono sempre a pensare che magari possa accadere qualcosa, invece sono 6 punti. Senza Amsic è un'altra storia, è un'altra vita. Senza quest'Amsic soprattutto, che stava già male di suo al di là del lacciato fisico, perché non riesce ad essere se stesso, e si vede. Il giorno dopo è una serie di, della chiusura di una serie di interrogativi: come mai questa squadra nelle ultime due giornate ha faticato a trovare la porta, soprattutto ha faticato a trovare la consistenza tattica delle prime partite. Non credo si possa né si debba parlare di crisetta assolutamente, però è chiaro che conviene interrogarsi ora sulla consistenza, sì, attuale della squadra. Sì. A partire da quella che vola Dortmund senza Amsic, nessuna frattura, nessuna lesione per lui, però non viene nemmeno convocato per la Champions League, che rimane comunque un'opportunità di quelle che pesano, importanti per guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale. Guai a trascinarsi tutto all'ultima sfida con l'Arsenal. No, se ti trascini tutto all'ultima sfida hai molte possibilità che vada male, poi tra l'altro, anche perché dove saresti costretto nel caso in cui tu debba vincere a fare 3 gol all'Arsenal. Quindi Amsic è uno di quei valori aggiunti all'interno della squadra, poi potrà anche giocare male, ma ci sta, fisiologicamente, in quelli che sono i rischi di una stagione. Secondo me molto dipende anche probabilmente dalla posizione in campo. C'è l'Amsic che gioca immediatamente alle spalle della prima punta, ha meno campo per poter andare a sorprendere, soprattutto a più uomini intorno che quasi naturalmente finiscono confonderlo in una gabbia. Certo. E diventa molto più complicato riuscire a dimostrare di avere la corsa, di avere l'intuizione, di essere intelligente. Sì, resta importante il suo rendimento in questa prima fase della stagione, è stato però altalenante, questo si può dire. Grazie ad Antonio Giordano, Corriere dello Sport, grazie Antonio. Grazie a voi tutti. Giancarlo, sentiamo le prime battute di Petkovic, poi l'ultima domanda da farti sul Napoli. Petkovic. Ma volevamo di più, soprattutto il modo in cui abbiamo agito. A questo punto è arrivato più con la casualità che con la testa. Cos'è che non Petkovic va, deluso malgrado quel pareggio finale, il gol di Zana al 94esimo che ha salvato la Lazio a Genova, Lazio però che ha fatto una brutta partita, soprattutto giocata per tutto il secondo tempo con un uomo in più, 11 contro 10 per l'espulsione di Krstičić, quindi c'era sicuramente da attendersi di più. Sentiamo ancora Petkovic. Tutte le partite in stessa fascia, perché il confronto della partita contro la Parma oggi è stata una diversa partita, dove Sampdoria con l'aggressività, con la voglia di imporsi soprattutto sul piano fisico ci ha messo sotto e noi non siamo stati abbastanza bravi in girare la palla, ma anche troppo individualisti per creare pericoli per l'avversario. Guardando la questo classifica, Petkovic, per chiudere Giancarlo Padovan, molti tifosi del Napoli delusi in queste ore scrivono ci sono 50 milioni per il mercato d'inverno, perché così ha detto De Laurentiis, almeno metà però andavano spesi ad agosto, adesso è troppo tardi, rischia di essere troppo tardi, condividi? No, non condivido, trovo anche ingeneroso nei confronti di De Laurentiis tutto questo, perché De Laurentiis ha fatto una campagna acquisti importante, significativa, mettendo giocatori giusti da tutte le parti e poi soprattutto i giocatori che chiedeva Benitez. A mio avviso forse manca qualcosa in difesa, certamente, e lì si poteva prendere solo Skrtel o si poteva prendere a Tori, ma a Tori non piaceva a Benitez. Io credo che il presidente abbia fatto Panzo abbia fatto il giusto. Certo, a gennaio qualcosa fa, ma l'ha già detto, fa tre colpi, ha in mente tre colpi, e con questi tre colpi il Napoli può sicuramente fare una seconda parte di stagione migliore della prima. Attenzione però a non buttare tutto alle ortiche, cioè questo Napoli è staccato, è andato in difficoltà con la sconfitta di Parma, però non è fuori dalla lotta per lo scudetto, e l'errore più grande sarebbe quello che anche la piazza percepisse una sorta di rassegnazione, che non deve esserci, primo perché già c'è la Champions, secondo perché il campionato è lunghissimo e le esperienze precedenti ci hanno abituato a vedere quasi tutto. Sì, anche se 6 punti dalla Juventus cominciano a diventare tanti, soprattutto per la qualità della Juventus. Grazie a Giancarlo Padovan. Grazie a te, però c'è il girone di ritorno, tutte le sfide del Napoli con le grandi sono in casa. Sì, ma è ancora lunga, lunghissima. Grazie Padovan. 800 24 00 24, intanto Massa ne ha combinata una delle sue, drive-thru, penalità perché ha scavalcato la linea bianca uscendo dopo il suo pit stop, dunque era quarto ma sarà costretto a retrocedere e si complica il sogno della Ferrari di agguantare il secondo posto nella classifica mondiale costruttori. 800 24 00 24, ci sono già Michele dalla provincia di Milano, Mario da Roma, ma non si offenderanno se diamo la precedenza a un grandissimo, Danilo Gallinari. Ciao Danilo, buonasera. Ciao. Che abbiamo strappato per qualche minuto e lo ringraziamo davvero al suo lavoro di riabilitazione. Come procede il recupero? Sei fuori da aprile, per i pochi che non lo sapessero in Italia, e dovresti essere anche abbastanza vicino al rientro. Come va? Molto bene, sta andando bene, la riabilitazione sta andando bene, seguendo bene la tabella di marcia, purtroppo non ci sono ancora date di rientro, non ho la minima idea di quando potrò rientrare, però insomma il ginocchio migliora, io sto migliorando e quello penso sia l'importante. Difficile stare fuori, difficile adesso poi che è ripartita la stagione. È difficilissimo, cioè, quando un atleta non può fare quello che fa tutti i giorni e quella cosa che ama fare, è difficilissimo. Ci racconti le tue giornate, ti avevamo dato un appuntamento, noi lo svegliamo gli amici a casa fra un'oretta, dopo le 6:30, ma tu hai detto assolutamente no, tassativo, perché sono in palestra. Raccontacele queste giornate. Ma la giornata inizia di solito alle 7:30, 8 di mattina con la sveglia, l'allenamento inizia alle 9, dalle 9 fino alle 2:30 sono in palestra a lavorare e ogni ogni giorno è così, poi in mezzo mettici i viaggi, le partite con la squadra, chiaramente non gioco però seguo la squadra, e quindi la routine è abbastanza insomma simile tutti i giorni. Stai buttando un'occhiata anche a quello che succede in Italia, ad esempio Milano che ha rimesso in piedi la sua Eurolega, la nazionale che recupera Hackett, che ti aspetta, spera nella wild card mondiale? Sì, seguo assolutamente, insomma il discorso della wild card è molto importante, perché poter giocare un mondiale sarebbe super, eviterebbe di giocare ancora le qualificazioni. Milano fu una grandissima partita contro una squadra tostissima. Che sofferenza, sofferenza, proprio sotto di un bel po' di punti, tornare così è bello, soprattutto in casa. Poi ho visto un pubblico super, un forum insomma quasi pieno, quindi è bello, dai. Sì, assolutamente. Hai sofferto anche per il Milan? Stai soffrendo in queste ore? Sì, come tutti i milanisti, sì. Ti scrivi più alla schiera dei delusi o degli arrabbiati? Sai che a San Siro ieri sera c'è stata un po' di maretta, contestazione, squadra costretta a spiegare, a scusarsi, a promettere impegno. Tu sei deluso o arrabbiato? Ma ti dico, io sono un tifoso, insomma, non mi faccio prendere molto dalle situazioni o dal momento. Sicuramente c'è... è un momento difficile, però non penso che nella storia delle società ci sono sempre degli alti e bassi, dei momenti più difficili, dei momenti più belli e più brutti, quindi bisogna cercare di stare tranquilli, analizzare la situazione, cercare di rispondere nella maniera migliore, e quindi adesso vediamo un po' che risposte ci saranno da parte dei giocatori e della società. Ma quanto è difficile stare in uno spogliatoio importante come quello del Milan, come quello dell'Olimpia, come quello che abiti tu oggi, quando le cose non vanno bene? È difficile, però io penso che quando è ancora più difficile quando magari giochi uno sport individuale, perché sei solo tu e sei te con te stesso. Invece quando giochi uno sport di squadra penso che la parte più bella sia quella di poter superare assieme dei momenti difficili, perché da soli non lo si può fare, e quindi in questo momento i giocatori devono stare assieme, cercare di superarlo assieme e condividere un momento difficile. Ti rubo ancora un minuto. Secondo te Allegri ha ancora, parliamo dei prossimi sei mesi, un futuro al Milan? È ancora un valore aggiunto? Può essere lui a guidare la squadra fuori da questa crisi? Ma io penso di sì, penso che lo abbia dimostrato in questi anni, vincendo e superando momenti difficili, e quindi non sono convinto nei cambiamenti radicali durante una stagione, quindi penso che debba finire la stagione e cercare di fare il meglio possibile, poi l'anno prossimo insomma deciderà la società, però io penso che adesso non sia il momento giusto per cambiare. Sì, la famosa scossa è anche un po' una leggenda metropolitana che raccontiamo noi giornalisti ogni tanto, vale per il calcio, vale per la pallacanestro, credo che valga un po' per tutti gli sport di squadra. Sì, ti dico, io ho fatto parte di alcune scosse nella mia carriera, quindi sì, non sempre funziona. Alcune scosse sono andate bene, altre scosse sono andate male, quindi cioè, non è sempre positiva, deve anche andare un po' di fortuna, ci devono essere tante cose che vanno bene nel momento giusto. Io penso che in questo caso per il Milan non sia la cosa giusta cambiare allenatore. Grazie Danilo. Grazie a voi, ciao. Grazie Danilo Gallinari, ovviamente un grandissimo in bocca al lupo, perché ci pare di aver capito si torna nel 2014, però il 2014 deve essere davvero l'anno di Danilo Gallinari. 800 24 00 24, abbiamo un paio di minuti, c'è Buffon che parla a Sky Sport, sentiamo proprio una battuta. Regolare fuori dal campo. Però insomma dai, oggi 500 presenze in Serie A per Buffon, sta raccontando, è passato, a proposito di quelli... è passato di tempo, sta raccontando come si fa a restare a questi livelli per 15 anni. Michele dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera, prego. Sono Michele dalla provincia di Milano. Dica. Senti, volevo parlare della crisi del Milan. Sì. Secondo me Allegri non ha nessuna colpa per quanto riguarda questa crisi del Milan, perché Allegri, primo anno che è venuto al Milan, aveva una rosa competitiva e ha vinto lo scudetto. La crisi del Milan è iniziata quando ha iniziato a dover sanare i bilanci, cui vendendo giocatori come Thiago Silva, Ibrahimovic e tutti gli altri, e cioè la rosa del Milan si è molto, molto ristretta. Questo è il mio parere. Poi per quanto riguarda proprio la vera crisi del Milan, secondo me è iniziata con l'uscita di Barbara Berlusconi. Sì, che di sicuro non ha fatto del bene in questo momento. Assolutamente, non ha fatto del bene assolutamente. Ha delegittimato Galliani, che per carità avrà le sue colpe se il Milan è in questa situazione, ma in questo momento era l'unico uomo forte all'interno di quella, di quella struttura. Io sono un tifoso interista. Sì, immagino stia godendo come un Ricci in questo momento. Michele, però io la devo salutare. Soprattutto per i miei compagni che li ho lasciati, diciamo, da soli, e sono loro che si allenano ogni giorno con me e tribulano sul campo con me e fanno fatica con me, quindi specialmente e soprattutto a loro, poi ovviamente ai tifosi che ci tengono e alla società. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Per le parole che ho detto all'arbitro mi scuso con l'arbitro perché non dovevo dirle. Mario fa un brutto fallo, deve essere punito Mario. Ma un altro fa un brutto fallo su di Mario, deve essere punito quello che ha fatto il fallo su di Mario. This is the end, no safety or surprise, the end. Penso che la gente è anche stufa di sentire sempre Mario, Mario, Mario, ma non sono io a parlare di me. C'è gente sempre gelosa, c'è sempre gente cattiva e c'è anche gente che non sa cosa fare durante la giornata, quindi penso che sia quella gente. Can you picture what will be so limitless and free? Mario ha sbagliato, Mario chiede scusa. Però adesso non voglio esagerare a chiedere scusa a tutti quanti, perché non è che ha ammazzato qualcuno. This is the end. Che noia, Pier, che noia. Come va? Bah, insomma, si potrebbe stare meglio. Per noi che abbiamo fatto notte per seguire le imprese di Giorgio Petrosian. Giorgio Petrosian, tu sai chi è? È un wrestler, no? Carlo ha dormito. Carlo alle 5 dormiva. Sì, io anche dormivo, devo dire la verità. Tu anche, Balotelli no. Da un paio d'ore dormivo. Ma Balotelli no, ma che te devo dire, guarda, la citazione, allora, partiamo dalla cosa più bella, è la canzone, perché ovviamente, insomma, Jim Morrison e tutto il resto, insomma, è assolutamente straordinaria. Non lo so, cioè, siamo chiaramente di fronte a una cosa che di per sé non è un peccato, no? Ci mancherebbe altro che un tweet possa essere un peccato, non no, è niente di offensivo. Nemmeno passare la notte in piedi due giorni e mezzo dal Celtic, è tutto opportuno, è tutto inopportuno. È tutto inopportuno, fa parte di quelle regole che non sono regole da codice penale o da chissà, però insomma sono elementi di opportunità. Ma mi verrebbe quasi da dire di intelligenza, a meno che non ci sia dietro proprio una provocazione voluta per tirare la corda e andare. Sospetto viene perché altrimenti, insomma, dopo una contestazione di questo tipo, comunque dopo la delusione per aver sbagliato il calcio di rigore, insomma, io credo che... Ma lascia stare. Il normale buonsenso, cioè qualsiasi giocatore con quale tu parli ti dice che nella settimana prima del derby bisogna non farti vedere in giro, perché sono delle cose, proprio delle regole normali, tranquille, banali, che fanno parte della ritualità del calcio. Nei momenti difficili è meglio stare schisci, come dicono a Milano, e invece evidentemente non è così. Poi ripeto, non ha commesso nessun peccato. Per carità, però, non ha commesso nessun reato. I tifosi del Milan stamattina erano tutti arrabbiati. Sì, ma avevano le loro ragioni. Tra l'altro io ti riporto Sport Mediaset, quindi da casa tua, Balotelli che si presenta 10 minuti in ritardo all'allenamento delle 11:30, c'è chi ha fatto peggio come Robinho, più 38 minuti, non mi risulta esistano né smentite né conferme, ma insomma, anche fosse, sarebbe l'ennesima conferma dell'anarchia che in questo momento regna in casa Milan. Qui il punto non è il tweet e non sono i 10 minuti, il punto è che sperava che, sempre nel bene, nell'interesse del calcio italiano e onestamente anche di un ragazzo che mi è simpatico, perché io ho una passione per gli irregolari, quindi tendenzialmente tendo a fare il tifo per lui, ci si aspettava e si sperava da parte di Balotelli che ci fossero degli elementi di leadership, degli elementi di personalità che invece non ci sono completamente. Io credo che ieri sera sia apparsa con straordinaria evidenza la differenza tra Kakà e Balotelli, e penso che questo pensiero i tifosi del Milan ce l'hanno in testa in questo momento, perché insomma uno era il giocatore che doveva rappresentare il futuro, sbocciare finalmente in una grandissima società comunque, sì, l'altro doveva essere il cavallo di ritorno, l'altro era il cavallo di ritorno, la scommessa, il giocatore forse anche finito, bollito secondo alcuni, e non è solo il campo, non è solo il campo. Ho l'impressione, Pier, che non abbia avuto una cattiva idea il funzionario della Digos, che ieri sera ha detto: caro Mario, tu non andare a parlare con i tifosi, ci mandiamo Kakà. Detto che a me queste scene fanno accapponare la pelle, sì, e lo dirò per sempre, però, al di là di alcuni comportamenti diciamo vagamente squadristi, insomma, no, il gruppo, la moltitudine che posso dar fastidio anche a me, però qui al di là del rapporto con gli ultra, al di là del rapporto con la curva, c'è un valore simbolico di un giocatore che si chiama Riccardo Kakà, che è uno che nella vita ha vinto il pallone d'oro e Champions League, che ha i soldi in banca giustamente guadagnati legittimamente e che per fa fare il suo. Una guerra che però in una situazione come questa, calata in un ambiente che conosce bene ma nel quale è tornato da due mesi, di cui uno l'ha passato infortunato, ha la personalità, le palle, diciamo la verità, di andare lì fuori e metterci la faccia. Sì, e anche la faccia da mettere, perché ripeto, Balotelli voleva andarci, secondo me non ha avuto una cattiva idea il funzionario della Digos che l'ha fermato. Intanto detto questo, la sintesi è, cioè, non colpevolizzerei ulteriormente Balotelli, però insomma continuiamo a vedere delle cose che non mi sembrano intelligentissime. No, assolutamente. Non mi sembrano grandi idee. Se c'è qualcuno dietro che lo deve controllare, direi che insieme ad Allegri si può pensare anche al sostituto del controllore, del tutore di Balotelli. Intanto, dicevo, aggiornamento per la Formula 1, 54 giri su 71 a Interlagos, gara che si è arruffata, difficile da interpretare. Davanti c'è Vettel con Webber secondo, terzo Alonso, che però sta attaccando Webber, ma soprattutto la notizia interessante per tutti i ferraristi è che anche Hamilton si è preso una penalità e dunque può ancora essere aperta la corsa al secondo posto nel mondiale per costruttori. 800 24 00 24, Mario da Roma, buonasera. Buonasera. Buonasera Mario. Io sono per la calciata di Allegri. Mario, proviamo a riagganciarla perché si sente malissimo. Maurizio da Milano, buonasera. Maurizio. Pronto? Sì, prego. Sì. Tocca a lei. No, niente, allora, io sono tifoso del Milan, però è una vita, anche quando vinceva non è che proprio ero... Io ho sempre considerato Galliani e Berlusconi poco intenditori di pallone, secondo me. Boh. E sono smentito con i fatti, vabbè. Io sono contentissimo di Barbara. Ha fatto tutto lei, Maurizio. Galliani, perché proprio, secondo me, sì. non capisce niente di pallone. Sì. E l'unica cosa, bisogna vedere chi arriva lì, perché se arriva un altro come Galliani, cioè, non cambia niente, anzi, sì. è peggio, buttiamo via i soldi, basta. Bah, va bene Maurizio, comunque ogni opinione è lecita, Pier, io non lo so, un anno e mezzo fa Galliani, che non capisce nulla di calcio, aveva venduto Pato per prendere Tevez, forse sarebbe cambiata la storia del Milan, la storia recente, perché, intendo. Perché fai il discorso, il calcio è materia liquida, io credo che... Adesso si può dire di tutto, ma che Berlusconi e Galliani non capiscano di calcio, allora forse in questi anni si sono fatti consigliare molto bene. Sì. Se c'è un tifoso in questi anni. Chissà come era bravo quell'altro. Chissà come era bravo quell'altro. Negli ultimi 25 anni che ha vinto più di tutti gli altri è il tifoso del Milan. E questo è un dato di fatto. Poi sicuramente alcune scelte sono scelte non condivisibili. Sicuramente c'è una fase sicuramente di declino negli ultimi anni rispetto alla prima parte della gestione Berlusconi, ma anche altri trionfi che ci sono stati negli anni 2000, quindi sicuramente insomma non è il momento migliore, anzi è uno dei momenti peggiori, però insomma se si parla di Berlusconi e di Galliani, si parla di 25 anni di storia. Pier, sai che abbiamo convocato per capirne di più su cosa sta succedendo, soprattutto a livello societario nel Milan? Sì, lo so. Però abbiamo chiamato la collega che oggi sul Corriere della Sera ha scritto che Galliani sogna di andarsene già a Natale, subito, appena trovato l'accordo per la buona uscita. Buonasera Monica Colombo. Buonasera a voi. Ciao Monica. Per quello Galliani vorrebbe andare via anche prima di Natale. Vorrebbe andare via Natale subito. Natale lontanissimo. Anche... Scusa, devo fare questa cosa. Ciao Monica, ciao. Una cosa fra di noi. Ciao Pierluigi. Ciao Pierluigi, ciao. Non ci fate caso, eh. Sì, magari domani mattina, evitando di finire il trasloco per la nuova sede. Un po' il senso è quello. Ma diciamo che la convivenza al quarto piano di casa Milan si è fatta, come dire, piuttosto difficoltosa. Io credo che, nonostante siano passate solo 3 settimane dal famoso comunicato ANSA di Barbara Berlusconi, in cui invocò un cambio di filosofia aziendale, ecco, nonostante sia trascorso un lasso di tempo così breve, però le cose sono veramente precipitate in fretta. Mercoledì i duellanti hanno tentato, diciamo, di simulare una tregua al galà di Fondazione Milan, ma sì, hanno fatto finta. Hanno fatto finta, diciamo che restano comunque forti i dissapori, e non appena Galliani, diciamo, avrà raggiunto l'accordo con la buona uscita, insomma, cercherà di congedarsi dal Milan. Ma il problema non è nemmeno questo, il problema è se Silvio Berlusconi o Fininvest gli daranno il placet, visto sì, che anche perché momento... mi sembra, Monica, che non esista un piano B, cioè mandiamo via Galliani domani mattina, mandiamo via Allegri questa sera, con Galliani vanno via le persone che collaborano con lui, e poi chi è l'uomo che va da lunedì mattina a Milanello ad accendere le luci, a cercare di tenere compatta la squadra, a fare da ombrello e tutto il resto, per non parlare del mercato di gennaio? Cioè mi sembra che manchi il piano B per pensare di poter lasciare andare via Galliani a Natale. Esatto, e quindi proprio per questo Silvio Berlusconi e probabilmente anche Barbara intenderebbero arrivare fino ad aprile con questo status quo. Il problema è che Galliani si trova nella situazione di chi sa che è bocciato a fine anno e quindi non ha più tanta voglia di studiare, insomma. Sì, mi è sembrato distaccato Pier ieri sera Galliani, di routine. Insomma, potrebbe anche esserci qualche modo dentro di sé la tentazione di dire: vabbè, sapete che c'è, visto che sono io il problema, visto che sono io quello messo in discussione in questo momento, vediamo. Poi è ovvio che, insomma, in questo momento le responsabilità sono responsabilità condivise, anzi io credo che comunque la presa di posizione molto forte nei modi di Barbara Berlusconi fosse un discorso più legato alle prospettive future, alle strategie future, e come detto sicuramente gli errori sono stati commessi, quindi insomma nemmeno Galliani sarà esente da colpe, no? Si prende, insomma, i meriti e si prende anche le colpe dei periodi in cui le cose non vanno bene, però un po' di questa tendenza ce la potrebbe avere in testa, di questa tentazione di dire: sapete che c'è, ho vinto talmente tanto in carriera, posso andare a fare altre cose. Anche se veramente quello che sorprende di questa vicenda è che in una storia quasi trentennale di rapporti incredibili e solidissimi, tutto stia avvenendo così rapidamente e in una maniera così poco da Milan, se mi passate l'espressione, no? Nel senso che al di là dell'immagine bella, sì, anche teatrale, di Berlusconi che saluta il vecchio amico sulla porta della villa di Arcore e di Galliani che dice: io non farò mai calcio con nessun altro perché sono legato a vita dal rapporto con Silvio Berlusconi. Si tratta di un licenziamento bello e buono, però, insomma. Nei fatti sicuramente rimarranno insieme, magari farà altre cose all'interno del gruppo, però insomma, comunque sia, Galliani è il calcio per quello che ha fatto in questi anni. E questa anche un'eventuale scelta di questo tipo, forse dal punto di vista mediatico, la si poteva gestire in maniera diversa. Ti faccio un'ultima domanda, Monica. Siamo sicuri che all'interno del mondo Milan, della famiglia Berlusconi, siano tutti sulla stessa linea di Barbara? Cioè che Galliani fra 6 mesi non potrebbe tornare di nuovo d'attualità perché la gestione dei prossimi 6 mesi magari si rivela disastrosa per chi comincia? Il discorso è proprio questo, c'è una diatriba interna fra Barbara e Fininvest. Fininvest è la controllante del Milan e Fininvest fa capo a Marina. Le idee di Marina sono molto diverse dalle idee di Barbara. Marina, che in passato poteva aver avuto dei dissapori con Galliani perché qualche stagione fa, quando si decise di ridurre i costi, chiuse diciamo i rubinetti per il Milan, magari all'epoca ci potevano essere state delle divergenze di vedute, ma ora Marina è la principale alleata di Galliani, prova ne sia che uno dei grossi motivi di scontro fra Barbara e l'amministratore delegato milanista fu il contratto con Adidas, un contratto lungo e remunerativo che Barbara però non voleva firmare, e Galliani, per ottenere il placet alla conclusione dell'affare, andò al CDA di Fininvest e Marina gli diede l'ok. Quindi insomma i motivi di attrito tra le due sorelle e tra la controllante e la controllata sono notevoli. In tutto questo Allegri, con tutte le sue colpe, è sinceramente un vaso di coccio. Grazie Monica. A voi, buona serata. Ciao, ciao Ken. Ciao. Grazie a Monica Colombo, Corriere della Sera, 800 24 0024. Partiamo da Forlì. Federico, buonasera. Federico, è in onda, no? Allora, eccoci Federico, buonasera. Sì, sono un tifoso milanista. Sì. Deluso no, perché quando uno si rende conto che la campagna acquisti del Milan è quella che è stata con Poli e ultimamente Matri, non può esserne deluso né arrabbiato, anzi. E poi considerando Balotelli il top player del Milan, signori, un giocatore che Balotelli è stato scaricato dall'Inter, è stato scaricato dal Manchester City, mi sembra abbastanza normale che Ma lei vede una via d'uscita o no, Federico? No, da tifoso del Milan. Le spiego subito perché. Un ascoltatore prima mi ha anticipato: quando si vendono i tre top player come Thiago Silva, come Pirlo e come Ibrahimovic, vuol dire che non si ha più voglia di vincere, non si è più competitivi e quindi non vedo un grosso futuro per il Milan. Infatti io sono tifoso del Milan da 50 anni, da quando giocava Rivera e vinse la Coppa dei Campioni nel 63. Non mi dica che ci ha ripensato, che i tifosi si vedono in questo momento, caro Federico, giusto Pier? Assolutamente. Mi fanno impazzire i tifosi che dicono sono tifoso del Milan da 40 anni, da 50 anni, però adesso, 50 anni. Però adesso sono deluso, io capisco la delusione, guardi, io, però bisogna star lì, presidiare. In 50 anni ne ho perso pochissimo, sia la radio che la televisione, gli ultimi due anni ne avrò viste per intero 4, deluso completamente. Non siamo più competitivi né in Italia né in Europa. Io ho fatto una scommessa con i miei amici quest'anno. Ho detto il Milan, se arriva a quinto, è un grosso successo. Sì. Penso di essere stato ottimista. Credo sia un miracolo. Grazie Federico. Roberto, dalla provincia di Rimini. Buonasera. Sì, salve. Volevo dire questo. Secondo me il problema del Milan è la mancanza di un progetto serio. Perché se l'anno scorso mi vai a puntare sui giovani e fai debuttare Niang, Sharawi, Balotelli in attacco fortissimo, non vedo perché quest'anno mi viene da comprare Matri che ha 30 anni e ha spendo tutti quei soldi lì. Continua una politica sui giovani, prendi magari dei difensori giovani da far crescere dietro la tappata MXS, Poli è un buon giovane secondo me, ma compra un regista, non puoi avere dei Young. Non è capace a fare un lancio di 10 metri, cioè non no, ma è evidente, il Milan ha molto ridimensionato, è dovuto rientrare di alcuni costi, probabilmente l'unica possibilità per riuscire a gestire questa fase di recupero e di alleggerimento del monte ingaggi era quella di affidarsi a un progetto un po' tipo Udinese, quindi trovare con un grandissimo lavoro di scouting delle soluzioni magari molto giovani, fare un discorso ai tifosi chiaro dicendo il progetto diventa a 3 anni, a 5 anni, abbiamo vinto tanto. Io credo, come ribadisco, non c'è società al mondo secondo me che possa permettersi di poter dire ai propri tifosi, dopo che ha vinto così tanto negli ultimi 25 anni, prendiamoci un periodo per ricostruire la società e una nuova generazione di fenomeni. Questo però non è successo, perché il Milan invece ha scelto molto spesso gli acquisti più di, diciamo, di fascino per cercare di risolvere. Sì, ha scelto proprio una comunicazione, no? Che ha sempre rilanciato. Io ricordo agosto del 2012 Galliani che diceva: il signor Allegri, con questi nuovi acquisti parlare di terzo posto non basta più, si deve essere competitivi per lo scudetto. Era un anno fa, non è che la formazione fosse poi così diversa. Pier, cosa ne pensi di questo ragazzino qui? Ma adesso anche la tua collega mi ha fatto la stessa domanda. Io sono felice del mio gol. Poi ripeto, se andrò al mondiale sarò l'uomo più felice del mondo. Se non andrò sarò felice lo stesso, perché mi godrò i miei figli e mia moglie. A occhio direi che non ci va, Pier. Stiamo parlando di Cassano, ovviamente. No, a occhio direi che non ci va, anche se poi qualcuno dovrà spiegarci delle cose a questo punto. Lo dico proprio sinceramente, nel senso che poi per me si può discutere, ci sono delle cose secondo me migliorabili anche della partita di ieri di Cassano, sicuramente potrebbe avere più brillantezza, diciamo, potrebbe avere ancora più dinamismo. Quindi ci sono delle cose... non ci va e basta. Ecco, però perché non ci va? Cioè, se non ci va credo per motivi caratteriali di convivenza con Prandelli. Allora, però, sarebbe anche il caso che Prandelli lo dicesse, con me sfondi la porta aperta. Se è così, a questo punto poi ci spiegasse cos'è il codice etico. Sì. Penso che, ecco. Perché? Cos'è il codice etico? No, ma io non penso che non ci vada per motivi caratteriali. Mm. Se fosse così, però, cioè se con una continuità di rendimento che è tutta da dimostrare, perché ovviamente può darsi pure che Cassano adesso non si blocchi dal punto di vista della qualità e non sia per le prossime 25 partite come quello di ieri sera, ma se dovesse essere quello di ieri sera le prossime 25 partite e Cassano non va al mondiale è uno scandalo, lo dico con chiarezza. Se non ci va, allora a quel punto è per un discorso extracampo. Però allora se il discorso è extracampo, questo codice etico bisogna capire un po' che cosa, come lo vogliamo dire. Ma non ci va nemmeno se gli altri il 29 di maggio hanno tutti 40 di febbre. Non ci va lo stesso. Allora però spiegatemi cos'è il codice etico. Io non te lo spiego perché non l'ho mai condiviso, non l'ho mai nemmeno capito del tutto. Cioè, io penso che noi abbiamo bisogno di Balotelli, abbiamo bisogno del miglior Balotelli, però se applicassimo il codice etico su tutta una serie di cose recenti, in maniera molto rigida, Balotelli potrebbe avere dei problemi, perché mi sembra che in questo momento non stia dando la qualità, la personalità, la maturità che un giocatore, diciamo, con tutti i crismi voluti da Prandelli dovrebbe dare in questo momento. Detto questo, io sono convinto che Balotelli ci andrà, spero che farà un fenomeno, perché abbiamo bisogno di lui, però secondo me abbiamo anche bisogno del Cassano di ieri sera, quindi voglio dire, non lo so, mi sembra onestamente che rischieremmo il due pesi e due misure, lo dico. Ma è già capitato, però Pier, io ricordo che Lippi prima del Sudafrica decise che Balotelli non avrebbe mai fatto parte di quella spedizione, stavamo parlando di un campione d'Europa, d'Italia, no, nel 2010, anche Cassano, non solo. Pensavo vale anche per Cassano, vale per Balotelli. Lippi disse non ho lasciato a casa giocatori che potrebbero vincere il pallone d'oro, per carità, non li aveva nemmeno portati. Tutto lì. Andrea da Mestre, buonasera. Buonasera, salve. Prego. Io volevo chiedere come mai la Fiorentina ogni volta che arriva a un certo punto bene, dopo tante vittorie consecutive giocando bene, finisce per bloccarsi contro squadre che, per carità, come l'Udinese oggi giocano bene, però erano in crisi, ecco. Soprattutto un discorso di personalità oppure un passaggio a vuoto ogni tanto ci sta. Pier. Io penso che la Fiorentina sia più bella che forte, lo dico con grande rispetto e penso che in qualche modo questa concezione ce l'abbiamo tutti proprio perché gioca bene. È una specie di eterno premio della critica, soprattutto l'anno scorso ha fatto delle cose eccezionali e questo delle volte può, in alcuni osservatori, mi ci metto anch'io, portare a sovrastimare la forza della squadra. Questa è la mia percezione, insomma. Stiamo parlando comunque di una classifica di altissimo livello e di una stagione che può ancora decollare. Forse lontana da quelli che erano gli obiettivi che si erano prefissati, se non sognati, quest'estate, perché comunque gli investimenti ci sono stati. È vero che poi Gomez si è fatto male, manca da un paio di mesi, però questa Fiorentina è una squadra costruita e pensata per tentare di arrivare fino in fondo a lottare per il terzo posto. Oggi i punti di distacco dal Napoli sono tanti. Ho sentito cadere una linea, non so chi è. Allora, intanto è finito il mondiale di Formula 1, ha vinto Vettel, tanto per cambiare, davanti a Weber, Alonso, Button, Rosberg, Perez e Massa, e quindi mano alla calcolatrice, ma credo che la Ferrari abbia chiuso al terzo posto il mondiale costruttori. Saluto Amedeo Carboni intanto, buonasera Carboni. Buonasera a tutti. L'abbiamo convocato perché intanto è uno dei massimi conoscitori di Rafa Benitez, poi è conoscitore dell'ambiente Inter e ci avviciniamo, mancano un paio di ore, Pier, a Bologna-Inter, tra l'altro tu sei a Bologna, giusto? Sì, io sono al Dallara. Già arrivato. Allora, abbiamo con noi Amedeo Carboni. Da dove vogliamo partire, Pier? Benitez o Inter? Benitez. Partiamo da Benitez. Dici che succede, Amedeo? Sorpreso di queste difficoltà, di queste ultime settimane? No, sinceramente sorpreso per quanto riguarda il risultato, perché tu sai, in questo momento io credo che la testa, specialmente in questa sconfitta con il Parma, è rivolta tanto alla Champions League, perché è un qualcosa che ci tengono un po' tutti, visto che le prestazioni degli ultimi anni anche in Europa League non sono state adeguate, mentre in campionato io credo ancora ci sono i margini. Purtroppo la Champions League non ti lascia tanti margini, e quindi secondo me, sapendo la partita che verrà martedì, sai, i giocatori, non è facile, perché è una partita determinante per loro. Ma questo del Napoli, di Rafa, è un progetto su che basi? 2 anni, 3 anni? I tifosi del Napoli possono essere soddisfatti comunque, anche se oggi la Juventus sembra lontana, perché questa è una squadra che si sta costruendo per essere davvero competitiva magari fra un anno? Arrivare già quest'anno a vincere un titolo o qualcosa, secondo me sarebbe un grandissimo risultato, senza dubbio, e rimanendo sempre diciamo nei primi tre. Chiaro che dopo dipende molto anche da quello che succede a Champions League, però pensare che quest'anno già il Napoli arrivasse prima o vincesse più di un titolo, secondo me non è facile pensare questo, anche perché, come abbiamo visto la partita specialmente con la Juve, si vede la differenza tra due squadre, una già collaudata, già forte, già squadra al completo, e l'altra in crescita, con grandi prospettive, però sempre in crescita, sempre ancora da formarsi. Pier? Sì, beh, io penso che la distanza c'è, sai come la penso, io ho sempre pensato che la Juve fosse la favorita per il campionato, lo pensavo almeno 5, lo penso a maggior ragione oggi. Ero molto curioso, devo dire la verità, perché mi sembra che Benitez abbia fatto un lavoro, e questo Amedeo ce lo potrà confermare o confutare, invece di cambiamento di filosofia di gioco. Il Napoli di Mazzarri ha fatto cose eccezionali, ma era una squadra che giocava molto di riflesso sulle ripartenze, e questa è una squadra che impone il suo gioco. E vorrei chiedere a Amedeo se secondo lui, conoscendo Benitez, c'è la possibilità di un passo indietro dal punto di vista tattico, perché mi sembra che in alcune partite, soprattutto con le grandi squadre, la formula con 4 giocatori offensivi e soltanto 2 interditori in mezzo al campo, insomma, abbia creato un po' di poco equilibrio. Conoscendolo, secondo te farà un aggiustamento cercando di rafforzare quella zona del campo con un mediano in più? Ma sai, per vedere se la squadra andava rafforzata, oltre ad aver portato giocatori nuovi, bisognava solo aspettare le partite e avere dei test importanti. Io credo che, visto che già sono passati già 5 mesi, perlomeno 4 mesi, io credo che, secondo me, se il Napoli vuole arrivare dove ci sono altre squadre, tipo la Juve, è chiaro che qualcosa, secondo me, dovrà fare. Non so se lo farà a gennaio o lo farà a giugno. È anche vero che il campionato è lungo ancora, perché credetemi, fino a marzo non si sanno mai realmente le cose, anche se sei dietro i 5. Mancano 25 partite, stiamo parlando di 75 punti. Lo dico per esperienza, perché il primo campionato di Benitez eravamo a 9 punti dal Real Madrid, quindi eravamo a marzo. Quindi. E allora, quindi, per esperienza dico questo, però è anche vero che in certe partite importanti c'è bisogno anche di giocatori che abbiano una certa categoria. Non che il Napoli non ce l'abbia, c'è una squadrone, c'ha. Però sai, se vuoi arrivare prima degli altri, se vuoi essere in testa tra gli altri, di essere leader in Europa, secondo me la rosa va ampliata, secondo me. Però ti ripeto, non so se lo faranno a gennaio o aspetteranno giugno. Sì, De Laurentiis ha detto che ha 50 milioni da mettere sul mercato a gennaio. Ti chiedo se Benitez è allenatore da ritocchi in corsa, o se nella sua filosofia è meglio forse fare tutto e meglio poi l'estate prossima. Ma sai, dipende dalla disponibilità dei ritocchi, non tanto economico, dipende dai giocatori che puoi prendere. Chi c'è in giro? Quello non è facile a gennaio prendere i giocatori di primo livello, perché qui stiamo parlando di giocatori da prendere che cambiano un po' quello che hanno, che quindi c'è un livello molto alto. Cambiare un giocatore a gennaio e trovare uno che abbia un livello ancora più alto di qualche giocatore, sì, diciamo che serve un difensore centrale, magari un esterno, perché lì ci sono gli infortunati, poi forse un altro centrocampista centrale. Sono 2 o 3 i posti dove si può andare a migliorare. Dietro soprattutto. Si migliora dappertutto, ragazzi. No, migliorare si può migliorare dappertutto, però dando un'occhiata al Napoli di questi mesi, Pier. Sì, sì, per me non c'è discussione, la squadra è divisa in due tronconi, anche se poi davanti ci sono delle cose da dire, per esempio Insigne deve diventare molto più concreto, insomma, questo ragazzo ha giocato 900 minuti in campionato, ha fatto 0 gol, e comincia a essere un numero brutto questo, insomma, lo dico con affetto, speranza e in bocca al lupo più profondo che si possa fare, perché questo è un altro talento del calcio italiano, però insomma mi sembra che debba diventare un giocatore molto più cinico, molto più maturo nella scelta della giocata migliore. Mertens da questo punto di vista secondo me è avanti, però sa, davanti il Napoli secondo me ha 7 giocatori per 4 maglie, mettendoci dentro anche Duvan Zapata che chiaramente è il settimo di ottimo livello, è dietro che bisogna intervenire. Io sinceramente credo che Britos sia un buon giocatore, ma non mi sembra un giocatore all'altezza di una squadra che può fare cose così straordinarie. Chiaramente Cannavaro è un giocatore perso, lo sappiamo dall'inizio della stagione, è un giocatore in meno, e in più ci sono gli infortuni sugli esterni. Secondo me dietro è un'emergenza vera. Dietro è assolutamente dove va ritoccato. Salutiamo Amedeo Carboni, grazie Amedeo. Grazie a voi, alla prossima, ciao. Ciao Amedeo, ciao. Grazie da Amedeo Carboni. Davide dalla provincia di Torino, che è qualche minuto che ci aspetta, Pier. Davide, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo intervenire sulla crisi del Milan anche io. Sì. Io vorrei più l'accento sulla crisi del tecnico, perché secondo me è il tecnico che va messo in discussione più che la società in questo momento. Cioè, noi parliamo di un tecnico che l'anno scorso ha iniziato a trovare la formazione all'undicesima giornata. Da lì in poi il Milan ha avuto lo stesso passo della Juventus. Sì. Quest'anno idem. Quest'anno siamo partiti, le prime giornate sono state peggio dell'anno scorso. Io non la metto sotto una crisi di giocatori, perché se andiamo a vedere giocatore per giocatore, il Milan non ha una squadra così brutta da 13 punti. No, da 14 punti in 13 partite, no, cioè, Pier, però nemmeno probabilmente da secondo, primo, terzo posto. Sì, sicuramente, non lo so, adesso diamo un po' di numeri, secondo me è una squadra da quarto, quinto posto, sesto posto, insomma da quel gruppo lì, quindi è molto al di sotto anche dei suoi valori tecnici, però è vero pure che i valori tecnici sono in qualche modo legati anche al vero crack che è Balotelli, che sta completamente mancando, e scusate, non voglio continuare a parlare di lui, però è un dato, cioè Balotelli deve essere la differenza di questa squadra. Cioè segna da 62 giorni in campionato, 62. Ma soprattutto poi quante partite salta, quante ammonizioni, quante squalifiche, quante volte. Cioè, il problema di Balotelli, che ripeto può essere fortissimo, è che quasi mai è un 6. Cioè non è uno che in questo momento, voglio dire, non è uno che se anche non segna ti dà comunque un contributo di un certo tipo. Ieri, guarda, paradossalmente ieri, e comunque nell'azione della quale si procura il calcio di rigore, come era iniziata la serata, ieri avevo visto un Balotelli sicuramente migliore, poi ha sbagliato il calcio di rigore ed è cambiata. Sì. Però insomma mi sembra una nave in tempesta continua dal punto di vista psicologico, quindi Balotelli è il grande uomo mancante, e poi sul resto c'è una difesa imbarazzante, e questo lo si poteva anche immaginare, ma tutto nasce secondo me da questa specie di compromesso che è stato fatto in estate. E in questo probabilmente ha ragione chi imputa qualcosa a Galliani, perché Galliani ci ha messo la faccia sulla scelta di tenere Allegri, l'ha convinto a rimanere. Allegri aveva il contratto con la Roma, nella famosa scena di Arcore ha convinto Berlusconi a tenerlo. È chiaro che se uno poi in qualche modo si prende la responsabilità e porta una decisione di questo tipo, poi anche qui l'errore poi si ritorce contro di lui. Sì, resta Pier che Allegri ha giocato tutta l'estate senza il trequartista, un minuto dopo aver conquistato il pass per la Champions si è visto vendere Boateng, recapitare Kakà e costruire la squadra che voleva Berlusconi, però, e gliel'aveva detto il 3 giugno, allora, se non sbaglio, no? Ad Arcore. Ma certo, però voglio dirti che lì, allora, o è un problema di leadership dell'allenatore che non riesce a imporre le sue scelte, oppure più probabilmente si è creato una specie di mostro, nel senso che tenendo un allenatore così, perché insistendo, ma senza una fiducia piena, senza la voglia piena di credere in un progetto, alla fine crei un mostro. Cioè viene fuori una situazione ibrida che alla fine non aiuta, perché tieni un allenatore senza dargli un anno in più di contratto, delegittimandolo agli occhi della squadra, che sa che l'hai tenuto quasi obtorto collo, non gli fai la squadra che vuole, alla fine il risultato è sotto gli occhi di tutti. Senti qui Pier. Però, ribadisco, siccome poi tifoso del Milan vive una stagione, quello diceva Gallinari prima, mi stavo ascoltando prima con Gallinari. Gallinari da uomo di sport conosce il calcio, la vita, e sa che questo è un momento doloroso per i tifosi del Milan, che però si guardano alle spalle e hanno vinto la Champions League, i campionati, sono stati sì, i padroni del... certo. E devono accontentarsi. Senti qua, a proposito di momenti dolorosi e di gioia, questi sono gli applausi del pubblico brasiliano per Sebastian Vettel. Abbiamo sentito l'inno tedesco, è finito il mondiale, Vettel campione. Fa un po' male perché quell'inno tedesco a noi ricorda tanti successi, noi tifosi della Ferrari, tanti successi di Schumacher. Siamo quasi in chiusura, Pier, buona telecronaca, Bologna Inter, Mediaset Premium. Grazie. Poi ci sentiamo pronti domani a partire dalle 14, perché Carlo Genta lo teniamo a riposo ancora una giornata. Va bene, dai, diciamo così, perché c'è una contrattura, una pubalgia, che c'è? Non lo so, glielo chiedete martedì. A domani, Pier. Ciao, ciao, ciao, ciao. Io vado invece da Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, mentre Vettel si scatta foto sul podio di Interlagos. Direttore, buonasera. Buonasera. Allora, 13ª vittoria stagionale, record di Schumacher del 2004 eguagliato, altra doppietta Red Bull, Webber che si ritira e finisce tra i grandi della storia della Formula 1, Ferrari che finisce terza nel Mondiale Costruttori. Questi sono i numeri di questo pomeriggio. Invece, se vogliamo provare a fare un commento, da dove partiamo? Ma niente, che Vettel dobbiamo prepararci che è destinato a battere tutti i record possibili e immaginabili. D'altronde questo ragazzo aveva iniziato a 16 anni in un campionato difficilissimo come la Formula BMW, vincendo 18 gare su 20, da allora la sua vita è stata assegnata da record, perché il più giovane pilota andare a putti, il più giovane pilota a vincere una gara, il più giovane pilota a vincere un mondiale, a 26 anni ne ha già 24, ha fatto i record, vincerà tra per pochi i record delle pole, i record delle vittorie, è veramente un predestinato, bisogna accettare e dire che la vita ha mandato per terra un fenomeno. Al di là di questo, credo che Alonso abbia chiuso bene, una bella gara con molto impegno, perché è un grande pilota. Bene o male, secondo nel mondiale, se non ci fosse stato questo Vettel, sicuramente era un altro mondiale. Sì, sarebbe stato anche competitivo per vincerlo, sì, certo. Sì, io sto rivedendo, certo, invece le immagini dell'errore di Massa che gli è costato la penalità e qualche posizione. Credo che la Ferrari perda il secondo posto per 5 punti, correggimi se sbaglio. Potrebbe essere, io credo che lì c'è stata una cosa abbastanza sospetta nel senso, non perché preordinata, sospetta che forse si poteva evitare, noi però non sappiamo tutto in questo momento, quindi non sappiamo se l'avevano avvisato prima, se il suo problema è che perché era subito davanti ad Hamilton, c'è qualche dubbio, se tanto perché è passato di là qualcosa non va bene, perché tutti sono passati almeno una volta al di là della riga. Sì, però insomma discussioni che possiamo chiudere nel cassetto, sperando che la rivoluzione del 2014, quando i nostri bolidi andranno in giro con un 1006, si dice con prestazioni più lente di 5 secondi al giro, con il rumore di un gattino, non lo so, io ho letto cose preoccupanti. Sì, non lo so, noi tra un anno vedremo che in pochissimo tempo andranno forte come queste. Sì. Inevitabile. Loro l'hanno fatto per rallentarli di fatto, perché le Formula 1 vanno a velocità pazzesche, tanto ci vogliono modifiche regolamentari per fermarle, se no in breve tempo superano. Sì, magari anche per mischiare le carte, perché è stato così anche recentemente. Molto diverso. Io credo che più che i motori, che sarà una cosa nuova, andranno un po' più piano, ma nel giro di un paio d'anni andranno uguali a questi. È che cambia proprio la forma della macchina, cambiano diverse cose, non sono più gli scarichi soffianti che erano la cosa che sembrava nel grande vantaggio della Red Bull, cambiano diverse cose, staremo a vedere. Abbiamo una rivoluzione, abbiamo tempo da qui a marzo per sperare, per sognare, poi per tirare le prime conclusioni. Grazie a Carlo Cavicchi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie direttore, io mi scuso con Angelo da Firenze, ma siamo davvero in chiusura, magari lo mettiamo già in nota, sarà il primo convocato domani dalle 14.05 quando torniamo con Pierluigi Pardo. Io ringrazio e saluto Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Paolo Corleone e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. Vi ricordo questa sera 20.45 Bologna-Inter, poi domani Cagliari-Roma-Cagliari, sempre alle 20.45. La notizia di questa domenica però è che in testa alla classifica, come sempre da un anno a questa parte, c'è la Juventus che è tornata a dominare. Un saluto anche da Giovanni Capuano.